Focus Economia. Di nuovo con Sebastiano Barisoni in questa puntata speciale di Focus Economia e dopo aver ragionato di un tema che non riusciamo quasi mai a affrontare, ma insomma gli investimenti di un gruppo come le grandi stazioni, poi avete letto in questi giorni quanto addirittura si ipotizzi le ferrovie dello Stato, che sono chiaramente l'azionista di grandi stazioni, possono entrare nel capitale di Alitalia. Qui si creerebbe veramente una sinergia mai vista prima, devo dire, a livello mondiale. Ma comunque, un gruppo che investe e migliora le infrastrutture e l'accoglienza del paese, ci fa sempre piacere portare, soprattutto sotto Natale, buone notizie. Adesso invece andiamo a palla nell'ultima parte del programma, che oggi terminerà alle 18, sui temi di attualità, di strettissima attualità. Veniamo da un fine settimana in cui tra lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica dopo che Monti è salito al Quirinale e la conferenza stampa di ieri di Mario Monti e poi anche l'intervista con Lucia Annunziata, il quadro politico e quella che è la campagna elettorale sembrano chiari nelle loro tappe, e quindi si andrà a votare a fine febbraio, dal 24 al 25 febbraio. Meno chiara, per essere buoni, sembra la partita che si giocherà, e quindi il campo è chiaro, i giocatori, le squadre un po' meno, anche perché forse è il caso di riflettere a questo punto, in una giornata come questa, di quello che resti, lo dico senza nessun tipo di polemica, della nostra classe politica, delle nostre elite politiche, in senso anche lato, non solo riferite ai partiti. E allora parliamo di questo. Lo so che è Natale, ma a Natale aleggiano su di noi spiriti forse anche poco natalizi, ma sicuramente non per questo meno pregnanti. Un uccellaccio con il cappello di Babbo Natale, così ce lo immaginiamo il professor Giulio Sapelli, nostro ospite più volte, insegna storia economica alla Statale di Milano, aleggia nei cieli freddi di questo inverno della politica. Professor Sapelli, buonasera. Buonasera, con me enciclopedie, gargantini, DVD per aumentare il grado di conoscenza delle masse degli ascoltatori e di me medesimo, naturalmente. Quindi ho dei miei doni di Natale, prego. Bene, allora intanto buon Natale anche a lei, anche grazie. Se è un Natale... Ne ho bisogno. Sì, lei, il paese, in generale tutti. Allora, senta, di solito a Natale in questo periodo facciamo anche i bilanci di un anno. Insomma, la coincidenza è pazzesca, un anno fa... sostanzialmente un po' di più, nasceva il governo Monti, l'altro ieri il governo Monti è anche formalmente finito. Le chiedo un primo bilancio, poi andiamo invece all'analisi della situazione politica, perché le variabili economiche rappresentano l'arbitro, diciamo, di questa partita elettorale. Ma un bilancio, so che lei non è mai stato tenero, lo dico a chi è in ascolto, con Mario Monti, però possiamo dire, per essere un po' didascalici, che la parte di ripristino della credibilità è stata fatta, la parte invece di riforme per lo sviluppo è stata bloccata? No, io rifiuto questa analisi, perché la parte di ripristino della credibilità è in verità una finzione che ha come sua appunto sostanziale verità il fatto che bisognava eliminare Berlusconi dalla scena politica italiana per non avere un blocco così anti-europeo, pur teutonico, pur negativo per la crescita, però tutti gli equilibri di potenza in Europa ormai congiuravano sul fatto che il governo Berlusconi, che era a pezzi, frantumato, diviso, centripeto, era un pericolo per le politiche di riaggiustamento, anche non essendo d'accordo io su queste politiche di riaggiustamento. Quindi diciamo che quello che si chiama riconquista dell'affidabilità era il fatto che con quella procedura atipica dal punto di vista costituzionale, un governo che si dimette senza essere sfiduciato, abbiamo trovato una normalità con il rapporto con le istituzioni europee. Io partirei di normalità acostituzionale, quindi sempre fuori da un orizzonte di Stato di diritto, come ormai mi pare che questo paese da alcuni anni sia precipitato e si muova. Beh, una bella botta di allegria alla vigilia di Natale. Sapete, però ho capito benissimo il suo ragionamento. Lei dice, in realtà, più che ricreare la credibilità, Monti era l'uomo... La normalità era l'uomo che i governi europei, in una fase, aggiungo io, delicatissima, perché sotto attacco non c'era solo l'Italia, ma anche la Spagna, iniziava a scricchiolare la Francia, il Portogallo e la Grecia. Era un loro funzionario. Avevano bisogno di qualcuno che... era un sottoposto che lavorava con un buon stipendio in Europa, aveva dato prova di fedeltà dal punto di vista dei regolamenti, si presentava regolarmente al lavoro, svolgeva le sue funzioni, quindi voglio dire, era una persona... Però, diciamo, era normale. Ecco, lei dice, come quando uno va in ufficio tutti i giorni, va lì tranquillo. Io ho precisato che lei è da sempre scettico su Monti, ma è per questo che in questo programma abbiamo di tutto, nel senso, qualunque opinione lì. È liberale, certo. Ecco, sì. Affinché ce la faccio. No, dunque, lei dice la normalità che ci chiedevano i partner europei in un periodo di estrema difficoltà è stata ripristinata. Naturalmente non quella economica, amico mio, perché dobbiamo ricordare, purtroppo, voglio dire, i dati sono apolitici. Dal 2008 al 2011, ammesso che questo spread significhi qualcosa, lo spread era di 111 in Italia, questo bisogna ricordare. Poi ha avuto un'impennata derivata appunto dallo sfacelo della disgregazione politica berlusconiana, dall'aggravarsi della crisi, e adesso con Monti però siamo ancora ai 300 e passa. Quindi da questo punto è cresciuta la disoccupazione in modo spaventoso, è cresciuto l'aumento fiscale, le previsioni del PIL sono drammatiche, si parla di meno 1, meno 5, lo dice l'Ocse, quindi tutte le previsioni che l'Ocse fa sono sempre prudenziali, poi le cose sono sempre diverse. Quindi il governo Monti lascia un paese in stato catastrofico. Voglio dire, basta vedere la dichiarazione che ha dato il ministro Profumo sul fatto di non aver saputo invertire il problema spesa e riaggiustamento per tutto quanto riguarda il problema dell'istruzione di ogni ordine e grado. Abbiamo colpito con tassi incredibili anche il not for profit, il volontariato, che è la base per ricreare un welfare non soltanto statalistico. È spaventoso che l'ex presidente delle ACLI, ex presidente del Forum del Terzo Settore, non capisca queste cose. Quindi è un governo che ha lasciato un'Italia in macerie. Se questo, però questa è la normalità. Ecco, però mi faccia fare come spesso faccio l'avvocato, non del diavolo, ma della controparte. Insomma, c'è chi dice, per lei del diavolo, per me della controparte. C'è chi dice, ma attenzione, si accusa Monti di non aver fatto in un anno quello che un governo come quello di Berlusconi, ma anche Prodi aveva una scarsissima maggioranza elettorale parlamentare, però un governo come quello di centrodestra con 100 deputati di scarto di vantaggio non ha fatto in 4 anni. Cioè, accusa Monti di non aver fatto. Ma bene o male che non l'hanno fatto. Se quelli prima avessero fatto per 4 anni quello che questi hanno fatto in un anno, saremmo regrediti a livello dello Zimbabwe come crescita economica. Questi solo con un anno ci hanno ricacciato indietro nella crisi. Questi promuovendo, implementando politiche di austerità e di sudditanza all'egemonia deflazionistica tedesca, hanno creato le basi per una recessione che arriverà nel prossimo anno e sarà terribile. Pensa un po', se questi l'avessero fatto per 4 anni, ci avrebbero ammazzato tutti, meno male che se ne vanno. Ma lei è succube del pensiero dominante. No, guardi. Lei è succube, no, succube. Sapelli, dai. Adesso deve leggere un po' i miei doni, deve sentire un po' i miei individui. No, allora, Sapelli, i miei lei doni sa che... keynesiani. Lei sa, no, lei sa che, mi faccia difendere la linea di questo programma, che la Germania, assieme ai guru di Wall Street, è stato il nostro, diciamo, quasi oggetto delle critiche. La Germania intendo dire come una politica per uscire dalla crisi tutta basata su tasse e tagli, senza un approccio più americano. Senza allora andare... si mette d'accordo con se stesso, perché se mi dice che non sono riusciti a fare per 4 anni, vuol dire che non è in regola con se stesso, Barisoni. Che il nuovo anno gli dia più stabilità, a lei più stabilità ed equilibrio. Guarda, questo lo prendo come un augurio. Ma diciamo, no, la mia riflessione era più sul dire le riforme non fatte, i costi della politica, i tagli alla casa. Si chiede tutto a Governo Monti in un anno, quando i partiti da soli fermo restando che questo governo poi doveva avere la maggioranza in Parlamento e sulle riforme, i partiti o la maggioranza precedente in 4 anni non era riuscita a intaccare nulla al processo di deburocratizzazione, di riforme e quant'altro. Non ci sono solo i tagli, professor Seppelli. Forse ci si aspettava troppo da questo governo? Ma io non mi sono mai aspettato, no, non lei. Mi aspettavo il peggio. Certamente che l'artata campagna di stampa, di mass media, e certo si aspettava il salto di questo governo. Basta leggere il Corriere della Sera di oggi e lei rimane allibito. Ci sono pagine che sbeffeggiano il governo Monti e addirittura il signor Monti, ma lei legga anche la Repubblica, il Sole, voglio dire tutti ormai sono costernati da quello che ha detto il senatore a vita Monti nella sua ultima apparizione in pubblico, e poi soprattutto stanno facendo i conti su cosa si è fatto. Ma lei pensi che non abbiamo applicato i costi standard, poi tutte queste cose che avevano detto, per esempio la riforma delle carceri, dove abbiamo appunto avuto sacrifici da parte dell'onorevole Pannella, promesse del ministro Severino, i costi della politica, cioè tutto. Hanno fatto solo delle cose disastrose. Le cose che avevano una certa parvenza di positività non sono riusciti a farle. Perché, vede, anche se si è un governo tecnico, come giustamente ricordato lei, e si ha bisogno di una maggioranza politica, c'è bisogno di avere dell'intelligenza politica. Io vorrei dire anche un'intelligenza tout court. Ecco, poi non parliamo di cosa hanno fatto sul lavoro, il pastigio sull'articolo 18, gli esodati, quindi. Ecco, senta, in questo giudizio errori. In questo giudizio positivo che lei dà del governo Monti rientra anche il calo dello spread, o come dicono alcuni, secondo lei essere scesi da 540 a 300 punti è stato più merito del Mario Draghi che del Mario Monti? Ma su questo non c'è nessun dubbio, voglio dire, anche perché gli americani sanno quello che fanno, hanno imposto ai tedeschi e alla Fed la nomina di Mario Draghi, il quale già adesso penso che veda con favore l'avvento di Bersani, che ha già ottenuto lo sdoganamento dagli USA, e quindi quella politica lì, da un punto di vista induttivo e deduttivo, è il frutto della politica della BCE. Quando Mario Draghi ha fatto quella dichiarazione epocale, che ha detto io farò di tutto per difendere l'euro e farò di tutto per evitare naturalmente l'incombere di un'altra crisi. Senza limiti di spesa, diciamo, sì. Senza limiti di spesa, la outright monetary transition, detto in termini astrusi, e ha detto state sicuri che lo farò, e da quel momento lì l'andamento delle borse, di tutta l'economia finanziaria è cambiato, scusi. Lì allora, c'è l'autorevolezza, lì c'è il potere. Allora, professor Seppelli, abbiamo il traffico adesso. Ho capito che il suo giudizio su governo Monti resta ampiamente, largamente negativo, e devo dire, in quanto, se posso sintetizzare la sua analisi, in quanto, tra virgolette, agente di quella logica tedesca deflattiva, cioè che creerà deflazione, prezzi che calano perché la gente non consuma, e recessione ulteriore, che è tutta concentrata sul rigore nei conti, che a mio avviso va anche bene, però senza nessuna politica per lo sviluppo, senza nessun approccio, mettere i soldi quando la gente è in crisi per far ripartire l'economia. Questo potrebbe essere un po' la sintesi di un approccio keynesiano, cosa che invece ha fatto l'America di Barack Obama, stampando moneta a vagonate, e in effetti lì i risultati un po' si vedono, anche se sul fronte dei conti pubblici poi staremo a vedere nei prossimi mesi. Da sempre questo programma, e chi lo conduce, è contrario a una linea di solo rigore e solo tasse, quella che portò la Repubblica di Weimar a finire, lo dico a livello storico, nelle braccia del nazionalsocialismo di Adolf Hitler, perché crea disoccupazione e con la pancia vuota si vota, diciamo, si votano gli estremi. Altra cosa sarebbe stata una politica che facesse respirare anche e non avesse questo rigore nei conti pubblici. L'America ha un deficit che viaggia all'8% e se ne frega, noi dobbiamo col fiscal compact tagliare il nostro debito del 20% nei prossimi anni, per cui una follia vera e propria. Detto ciò, dopo il traffico vorrei capire, visto che ho detto che l'arbitro di questa campagna elettorale sarà comunque l'economia, perché è chiaro a tutti che se lo spread dovesse tornare a salire, se i giudizi dall'estero dei mercati fossero molto negativi, questo influenzerebbe la campagna elettorale. Dopo il traffico vorrei sapere lei come vede le nostre elite politiche, lato senso, in senso allargato, non solo i partiti, presentarsi a questa campagna elettorale anche e soprattutto sui temi dell'economia. 349-238-6666 per i vostri sms, un minuto di traffico e poi torniamo.